Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e tutti da Debs e Priscilla. Oggi vogliamo dedicare la nostra mezz'ora di storia sulle frequenze di Radio Città Fujiko a un tema complesso e sfaccettato come la cultura skinhead. Oggi su Van Loon ci impegniamo ad abbandonare ogni stupida generalizzazione che spesso capita di sentire sui media quando sentiamo parlare di skinhead. E affidiamoci quindi alla musica, ondeggeremo infatti tra i suoni in levare e tra il ruvido oi, e ovviamente a chi si è sporcato le mani tra strada, concerti, racconti e studio. Abbiamo infatti il piacere di intervistare Flavio Frezza, autore del libro di cui vogliamo parlare, che si intitola Italian Skins, appunti e testimonianze sulla scena skinhead dalla metà degli anni 80 al nuovo millennio, edito da Red Star Press e da El Nation Libri. Prima di lasciare la parola a Flavio, diamoci delle coordinate, e queste coordinate puntano esattamente in Inghilterra. Al contrario del punk, che ha delle origini temporali e spaziali più ampie e indefinite, infatti ancora non abbiamo deciso se il punk nasce negli Stati Uniti, a Detroit, oppure anche a New York, oppure in Inghilterra a metà degli anni 70. Invece la sottocultura skinhead ha delle radici britanniche, nello specifico tra le maglie della cultura proletaria e lavoratrice degli anni 60. Se in Italia la scena skinhead nasce in seno alla scena punk all'inizio degli anni 80, in Inghilterra i semi di questa sottocultura nascono qualche decennio prima, anzi diciamo proprio che forse convenzionalmente si sceglie per indicare l'inizio il mitico 1969. Da storiche ci permettiamo di ribadire che non esistono ovviamente degli inizi così netti. Lo stile skin prende ispirazione dai ritmi del soul americano e dello ska giamaicano, care ai mods, e alla cultura dei rude boy e delle rude girls proprio degli immigrati giamaicani in Inghilterra. Non ci dilunghiamo ulteriormente sull'evoluzione della scena tra prestiti e innovazioni, ma ci limitiamo a ricordare che una delle evoluzioni più particolari è quella che è avvenuta tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, grazie al confronto-scontro con l'universo musicale, culturale, politico ed etnico del reggae e del punk. This love, love I can't understand. Don't be like a donkey if you really a man. You don't fool a soul if you wear sharp studs. Your mouth is dirty and you cuss about the word. Hooligans, hooligans, make up your minds. Hooligans, hooligans, this is the time. Hooligans, hooligans, make up your minds. Oh, mother been weeping. Oh, father been preaching. We were no more strangers. We were more than friends. Yet the bottles were split. I giovani ballano, lavorano duramente, si incazzano, si picchiano, si drogano e bevono, si vestono in maniera altra, diversa, si distinguono e si aggregano. Questo fenomeno inizia a essere studiato e analizzato. Le radici teoriche della subcultura affondano nelle ricerche dei sociologi e criminologi della scuola di Chicago dagli anni 20, che ha fornito le basi per lo studio delle bande giovanili di strada e gruppi socialmente devianti. Nel 76, in Gran Bretagna, il Centro di Studi Culturali dell'Università di Birmingham metteva a punto un apparato teorico innovativo, grazie al quale individuava un sottoinsieme o sottogruppo all'interno della classe lavoratrice britannica, working class, che ha poche corrispondenze con la classe operaia italiana dell'epoca, al quale dava il nome di subculture. I due pionieri sono Stuart Hall e Tony Jefferson, che pubblicano il primo e fondamentale lavoro sui giovani e subculture della working class britannica nel secondo dopoguerra, che si intitola Resistance Through Rituals, che diventa immediatamente un testo chiave per la ricerca e per l'insegnamento delle culture giovanili. Questo primo lavoro di ricerca sulle subculture segna uno spartiacque. Lo è innanzitutto perché vede nella cultura giovanile una forza creativa che i precedenti studiosi erano restii a riconoscere. Vogliamo dire anche un'altra cosa. Ci sono delle modifiche all'interno dell'Accademia britannica del tempo, perché comunque era un universo dominato da una classe elevata, da classi medie, da ricchi, bianchi, benestanti e eterosessuali. arrivano Stuart Hall e Tony Jefferson, che in realtà hanno delle radici molto diverse, e questo comporta dei cambiamenti proprio sui soggetti che vengono studiati all'interno dell'Accademia. L'avvento della cultura giovanile nel dopoguerra era un tema radicato principalmente nell'industria del tempo libero. Negli anni 60 il vivace immaginario della swing in London, delle controculture e gli echi rivoluzionari di movimenti studenteschi del resto d'Europa spingevano i giornalisti e i politici britannici a occuparsi e a discutere di giovani, ma la loro copertura dell'argomento era dominata da un'automatica corrispondenza tra cultura pop, i cui maggiori rappresentanti erano i Beatles e i Rolling Stones, la delinquenza e il consumo di sostanze con la cultura giovanile. Il maggiore responsabile di tanti luoghi comuni sui giovani e le culture giovanili si trova nel modo in cui gli opinionisti e i politici bianchi conservatori degli anni 50 e 60 di mezza età di classe media hanno trattato la tematica, fuorviando così la conoscenza della cultura giovanile. Ma che succede nei piani alti della politica inglese in questi decenni? Intorno al 1976 avviene il collasso del consenso nazionale verso la sinistra e il partito laburista. Infatti, intorno al 76, il primo ministro laburista Callaghan afferma che la priorità della politica economica del suo governo sarebbe stata la lotta all'inflazione piuttosto che la ricerca della piena occupazione, e questo avrebbe segnato così l'abbandono di un pilastro del welfare state britannico. Dopo 3 anni di crisi economica e occupazionale ed elevata conflittualità sociale, l'elezione di Margaret Thatcher nel 1979 portò a un definitivo superamento del precedente paradigma del welfare. Questi 2 smottamenti sul piano politico e sociale inglese avrebbero portato a una profonda revisione della natura stessa dei processi di costruzione dell'identità. La frammentazione sociale si intersecava con una maggiore presenza dell'identificazione su base etnica, culturale e nazionale. La segmentazione sociale, il confronto con le comunità immigrate e le nuove forme di recupero identitario aggressivo, nazionale ed etnico attraversano la società inglese. Le subculture britanniche del dopoguerra, come gli skinhead, erano così sacche interne alla working class di resistenza alle istituzioni dominanti ed egemoniche della società britannica. Lo stile delle diverse subculture rappresentava la reazione dei giovani della working class come una risposta collettiva e di gruppo ai cambiamenti strutturali della società. Lo stile inizia a rivestire sempre più importanza. Ma prima di parlare adesso con il nostro caro autore Flavio Frezza, ci ascoltiamo un brano degli Sham 69, un gruppo inglese che è nato nel 1976 e che rappresenta proprio uno dei primi esiti tra il confronto tra punk e il background proletario degli skin inglesi. Bene, arriviamo quindi a presentare il libro di cui oggi parliamo, Italian Skin, ci racconta nella prima parte l'evoluzione della scena skinhead in Gran Bretagna e in Italia poi. Sulla situazione italiana dobbiamo dire che la letteratura scarseggia e quindi è sicuramente già di per sé un motivo valido per ritenere il testo di Flavio prezioso. Sottolineiamo che la maggior parte del libro è occupato da interessantissime interviste a skinhead e a skin girl e che nell'ultima parte possiamo anche ritrovare la riproduzione di documenti e di foto che ci aiutano a capire meglio di cosa stiamo parlando. Diamo quindi la parola a Flavio Frezza, autore di Italian Skin, conosciuto anche per essere stato uno dei fondatori del gruppo Oi Punk Razza a Parte. Benvenuto a Flavio sulle frequenze di Radio Città Fujiko, che oggi ci presenta appunto il suo libro che parla della sottocultura skin. Allora, abbiamo letto con entusiasmo il tuo libro e chiediamo a te semplicemente appunto di introdurcelo un po' e di raccontarci cosa ti ha spinto a scriverlo. E in particolare ti chiediamo di dare un po' più di attenzione alla scena italiana e di raccontarci se esiste una specificità della scena italiana secondo te. Ti chiediamo inoltre di soffermarti un po' sulla questione della politicizzazione degli skin e sull'ampio dibattito su fascismo e antifascismo. Ciao, intanto grazie per i commenti sul libro. Sì, ho scritto questo libro perché sono stato e sono ancora sotto molteppi coinvolto nella scena skinhead italiana sin dai primi anni 90. Quindi circa un anno e mezzo fa c'è stata una chiacchierata con Roberto Gagliardi del Nation e con Cristiano Armati di Red Star Press, perché l'hanno pubblicato loro come il Nation Libri, il mio volume, e niente, hanno detto che erano molto interessati all'argomento, quindi sono andato avanti con la mia ricerca, che è stata una ricerca in parte sul campo, quanto ho intervistato, dovevo intervistare 40 skin ed ex skin, poi per ragioni di spazio e di tempo ho ridotto il numero a 30, e poi è stata una ricerca anche tra le mie cose, perché essendo coinvolto nella scena da molti anni, ho un archivio abbastanza consistente di materiale, sia editoriale che discografico, fotografico, eccetera eccetera, skinhead. In più ho potuto contare sull'aiuto di molti amici che hanno colmato delle lacune dove ce n'erano. E sì, e per quanto riguarda la specificità della scena skin italiana, certo, è un libro, il libro è intitolato Italia Skins, c'è una prima parte di carattere storico che parla dell'origine della sottocultura dagli anni 60 in poi della sottocultura in Italia, la seconda parte del libro, che è quella forse più interessante, con le interviste a questi 30 skinhead prodotte e commentate da me, non interviste intere, ma ci sono loro commenti su alcuni argomenti specifici, tra cui appunto quello della politicizzazione, il modo di fare antirazzismo, se e come questo è collegato all'antifascismo e via dicendo. E in merito alla politicizzazione, cosa volete sapere di preciso? Ma guarda, nello specifico volevamo un po' risolvere con te poi delle questioni legate anche all'ingresso di skinhead dichiaratamente fascisti nella scena, perlomeno dalla metà degli anni 80, se non sbaglio. Volevamo capire un po' come è avvenuto questo passaggio e quale linee di divisione poi si sono create. Allora, la scena skin, questo lo dico perché immagino che molte persone non siano molto al di dentro della cosa, comunque è nata nella seconda metà degli anni 60 in Inghilterra da una costola della cultura modernista, dai mod, e dall'avvicinamento di questa costola del modernismo, che era chiamata nello specifico hard mod, perché si trattava di mod che però si riappropriavano delle proprie radici proletarie, quindi avevano anche un abbigliamento più duro, da un avvicinamento di questi hard mod ai Rude Boys d'origine giamaicana che si trovavano in quel momento in Inghilterra e che hanno portato la loro musica, alcuni elementi stilistici e via dicendo. Non c'entrava niente la politica nei primi anni, tanto è vero che c'erano la maggior parte degli skin, secondo chi ha vissuto quell'epoca, aveva simpatie laburiste, qualcuno, forse una minoranza, aveva simpatie per i conservatori, però di fatto non era presente la politica nella scena, cioè ognuno aveva le proprie idee e finiva lì. Non esistevano allora giovani fascisti inglesi, perché c'era ancora un ricordo molto fresco dei bombardamenti e così via, e c'è stata una politicizzazione a destra di una parte della gioventù, comprese diverse sottoculture e in particolare quella skinhead, e per tutta una serie di motivi che adesso, se voi interessano, proprio vi spiego, però non li sto ad elencare in questo momento. Questa politicizzazione c'è stata più o meno a ridosso dell'esplosione del punk in Inghilterra, per cui ci sono stati molti skinhead che erano soprattutto ex punk, quindi erano attenti, diciamo, a un'estetica molto proletaria, ma non erano particolarmente coscienti delle radici multietniche della sottocultura, che si sono avvicinati al National Front e al British Movement. Hanno avuto abbastanza importanza, però non sono stati preponderanti per alcuni anni. Quando c'è stato un regresso della scena OI, l'OI è un sottogenere del punk rock che è particolarmente caro agli skinhead, e c'è stato nel frattempo un avanzamento degli Screwdriver, che sono stati il primo gruppo skinhead nazista. Questo ha portato a una forte politicizzazione tra gli skin inglesi e di conseguenza anche tra quelli italiani, perché primissimi anni 80 si era formata una scena skin italiana, anche questa nasceva dal punk. Da voi a Bologna c'è stato Steno con i suoi Nabat, che sono stati sono tuttora il gruppo più importante. E questi skin andavano, era diciamo come pellegrinaggio, nelle parole di Riccardo Pedrini, il bassista e poi chitarrista dei Nabat, partivano con le accerchiate e tornavano con le svastiche, perché quella era l'aria che tirava. Quindi c'è stato un ingresso della politica anche da noi. È stata per un certo periodo di tempo, fino all'83, diciamo più una provocazione da parte di alcuni ragazzi, come i primi punk indossavano le svastiche e così facevano alcuni skin. E finché a un certo punto non c'è stata una politicizzazione vera e propria, sia in Inghilterra che in Italia, e anche con la nascita di organizzazioni come il Veneto Fronte Skinhead e via dicendo. Questo ha portato naturalmente la controparte, cioè non soltanto gli skin propriamente di sinistra, ma anche quelli a cui non interessava la politica, ma che si opponevano al razzismo o comunque alla politicizzazione della scena, ha portato questa controparte della scena skinhead a sua volta a prendere delle posizioni sempre più nette nei confronti di razzismo e fascismo, e da qui è nata la divisione che fortunatamente c'è tuttora tra una parte razzista e politicizzata a destra della scena è una parte che inizialmente era non razzista e poi è diventata col tempo, per i motivi che ho detto, apertamente antirazzista. D'accordo, grazie, sei stato veramente chiaro su questo tema piuttosto complesso. Vini, senti, sempre rimanendo sulla questione italiana, per farci raccontare un po' il clima e l'atmosfera che si viveva, insomma, nel quotidiano, una delle particolarità probabilmente sono state le fanzine e tutto il mondo, tutto quello che ruotava attorno ai concerti, cioè al di là del concerto in sé c'era tutto un mondo che girava, no? Tutto una rete. E per esempio, partendo dalle fanzine, che sono immagino dei documenti che tu hai visto e sfogliato un po' per ricostruire questa storia, c'è qualcosa che ti ha incuriosito? C'è qualcosa di particolare? Insomma, ci vuoi un po' raccontare cosa hai sfogliato? Guarda, di fanzine ne sono, durante gli anni 80, ma anche negli anni 90, sono uscite tantissimo. Con l'avvento di internet sono diventate sempre più rare e sempre meno influenti, finché, forse proprio come, questo non lo sappiamo ancora, magari lo diremo tra qualche anno, però come risposta forse digitale, negli ultimi anni c'è stata una riscoperta di questo mezzo. Un po' c'è l'effetto nostalgia, no? Ti manca la carta stampata. D'altra parte però la carta stampata ti permette una cosa che internet non può fare, ovvero l'approfondimento. Perché per ragioni fisiologiche, quando leggiamo un testo di una certa lunghezza in rete, su uno schermo, che sia quello del telefono o quello del computer, tendiamo poi a saltare certi passaggi, mentre la carta stampata consente una lettura più approfondita. E giudico positivo il fatto che alcune informazioni siano reperibili su queste fanzine e non in rete, perché è uno stimolo naturalmente per i ragazzi per acquistare le fanzine e sostenere anche in questo modo la scena. In generale, ti faccio una domanda che non avevamo concordato con Alessia. Hai un ricordo, cioè... quello che esce fuori da tutte le interviste che hai fatto, poi immagino che fare un'intervista da skin a un altro skin comporti qualcosa, insomma, non sei stato, immagino, un interlocutore neutro con chi parlavi, e questo immagino che in qualche maniera nella ricostruzione dell'intervista abbia influito. In generale, secondo te, a livello complessivo, possiamo dire che era una scena entusiasta, una scena felice? Cioè, sono dei racconti comunque che ti hanno trasmesso un senso di serenità, ricordi positivi, cioè questa è la sensazione che ho avuto io leggendo le varie interviste. Che alla fine dei conti, cioè, senso anche di rivendicarsi, aver fatto parte di quella scena, ma non solo in un senso duro del termine, non solo un orgoglio così freddo, ma proprio anche del calore, dell'entusiasmo. La comunità. Allora, guarda, prima di rispondere a questo mi riaggancio alla prima parte, all'osservazione che hai fatto sulla neutralità. Io sono stato skinhead per tanti anni, per certi versi penso di potermi considerare ancora tale, almeno per le attività che faccio, per l'abbigliamento e via dicendo. E nonostante questo, io, siccome ho fatto anche altri studi che riguardano la dietologia e lo studio del folklore della Tuscia Viterbese, che è la mia regione, ho imparato alcuni metodi scientifici, sia per fare ricerca sul campo che nella redazione dei materiali. Ho cercato, pur rendendo chiaro su alcuni argomenti dove ci tenevo, pur dicendo come la pensavo, comunque non ho cercato di dimostrare una tesi o di portare a intervistare le persone o trattare i loro materiali in modo tale che potesse essere dimostrato quello che pensavo io. L'idea su cui si legge il libro è che non esiste una definizione univoca di skinhead, ma che questa cambia a seconda del posto, dell'epoca, soprattutto delle caratteristiche di classe, perché da noi c'è stata una politicizzazione più forte rispetto all'Inghilterra, per il semplice motivo che da noi c'è stata una sinistra sia parlamentare che straparlamentare molto radicata nelle classi popolari. In Inghilterra magari c'era più la simpatia per i laburisti, ma era una cosa diversa rispetto a quella che è stata la militanza anarchica, certo, o comunista per tante persone. E tiene anche conto che la nostra è una scena che, sì, da metà anni 90 in poi ha vissuto soprattutto dentro centri sociali, anche questo comporta qualcosa. Certo. Per quanto riguarda la domanda vera e propria, sì, certo, cioè tu ti rendi conto che delle 30 persone che ho intervistato, 26-27 le conoscevo già ben prima, soltanto con 3-4 ci ho avuto contatti superficiali. Si tratta in qualche caso di amici molto stretti, se non dei fratelli, quindi sono state chiacchierate molto tranquille, molto confidenziali. Io c'è una cosa che mi piace raccontare, che poi ho scritto pure nella postfazione del libro. C'è una di queste persone, che è una di quelle che ha vissuto la scena skinhead in maniera abbastanza dura, perché era dura la realtà in cui la viveva, quindi una scena molto vicina, diciamo, c'era gente che entrava e usciva di galera e via dicendo, no? Si tratta di una realtà metropolitana che magari è diversa da quella mia cittadina di Viterbo, dove ci abbiamo avuto i nostri problemi, però non c'era nessuno di noi che entrava e usciva di galera, problemi, sì, legali tanti, però un conto è la repressione quando fai politica, un conto è quando sei proletario e inevitabilmente finisci ad avere a che fare con la giustizia, giusto? Certo, certo. C'è stata questa persona, ha detto, era molto in difficoltà, non sapeva se concedermi l'intervista, ma ha detto, dice, guarda che per me parlare di certe cose è come fare una seduta dallo psicologo. Cavolo. Questa frase poi me l'hanno detta un altro paio di persone e alla fine l'ho scritta pure io sul libro, perché così è stato, nel senso che comunque devi confrontare. Sì, c'è stato il divertimento, c'è stato tanto entusiasmo, come dicevi, cose bellissime legate alla gioventù e tutto, però ci sono stati anche un sacco di momenti difficili. Riandare a toccare certi argomenti, pensare a persone che oggi sono scomparse, comparse perché sono state sfortunate o perché sono state idiote o quello che ti pare, comunque non è stata una cosa leggerissima, né per me che le ho ascoltate e che le ho rivissute, né per chi ha dovuto parlare magari del cantante del proprio gruppo che è morto per questo motivo o per quell'altro. Certo. L'ultima domanda che ti facciamo è quella legata a uno dei temi un po' taciuti quando si parla di sottoculture, non solo quella skin ma in generale, mi riferisco davvero a tutti i tipi di sottoculture, che è ovvero quella della questione del sessismo e di un certo machismo che esiste e che non sempre viene fuori, non sempre viene posto come elemento di dibattito. Noi non abbiamo un intento accusatorio o provocatorio, insomma, sono domande che ci siamo già fatte e ci abbiamo ragionato. Con te invece vorremmo fare un ragionamento più di largo respiro. Secondo te, stati storicamente dei momenti in cui si è affrontato? E in generale, cosa vuoi dirci su questo tema? Allora, io comincio, perché questo anche è uno degli argomenti di cui si parla anche nel libro mio, comincio di punto di vista mio. E io, come dicevo prima, gli skin sono riflesso della propria realtà, anche di classe, territoriale, eccetera, eccetera. Il termine stesso sottocultura ti fa pensare ad una cultura che appartiene ad una cultura più ampia, no? Io penso che sarebbe molto strano se noi fossimo immuni da qualsiasi male, certo, della società. Nello specifico parliamo di maschilismo e di machismo, se ci vogliamo mettere l'omofobia. A me piace pensare che nel nostro ambiente, anche a causa di certa politicizzazione, ci sia meno maschilismo rispetto ad altri. C'è chi dice che il nostro atteggiamento, che alcuni vedono come macio, comunque favorisca certe cose. Io posso parlare per me, per gli amici più cari che ho, non penso di essere maschilista né niente del genere. Credo che non esistano sottoculture e neanche controculture e neanche movimenti politici che siano immuni da questo. Certo. Non penso che se parli con mille compagni che fanno politica, tutti questi siano, non tanto a parole quanto nei fatti concreti, siano di fatto femministi, se vogliamo usare questo termine. Perlomeno antimaschilisti. No, non credo che la scena skin sia particolarmente maschilista o macista, omofoba rispetto alla scena hardcore, rispetto alla scena punk, rispetto alla scena mod e così via. Visto che era un argomento che mi interessava, io ho intervistato anche alcune skin girl ed ex skin girl, naturalmente. Il problema che c'è stato è che erano poche, nel senso, su 30 persone io ho intervistato, mi sembra, 3-4 donne, che è un numero molto basso, però è un numero che rispecchia la realtà di quegli anni, perché fino a pochi anni fa la scena skinhead, ma anche altre scene, c'era una presenza maschile schiacciante rispetto a quella femminile. Oggi le cose sono molto diverse, anche questo mi sembra un indice positivo per vedere cioè, non che una presenza di donne sia sinonimo di assenza di maschilismo, sia chiaro. Però comunque mi sembra un segnale positivo il fatto che ci siano molte più ragazze rispetto al passato e soprattutto che siano molto attive, nel senso che non è la girl, come capitava spesso una volta, soltanto la ragazza dello skinhead. È una skinhead, una che fa le sue attività, che ha le sue idee e dà un contributo attivo alla scena. Allora, interessato anche a me molto l'argomento, perché effettivamente esiste un problema non da parte skinhead ma da parte maschile, spesso a prendere una posizione netta contro il maschilismo, contro l'omofobia e via dicendo, ovvero a prendere una posizione. io ci tengo a questo argomento perché non penso che si possa essere semplicemente maschilisti e la cosa rimane per sé. Certo. Perché in una società ampiamente maschilista è normale che accadano spesso stupri, che accadano omicidi di donne e via dicendo. Questo è quello che penso io, per cui ci tengo che il tema venga fuori. Quindi ho pensato, invece di chiedere il punto di vista agli uomini, ho chiesto il punto di vista alle poche donne che sono riuscito a intervistare. E anche loro mi hanno detto cose differenti, perché c'è stata una ragazza che mi ha detto, dice, guarda, io ci ho avuto grossi problemi. Cioè non c'era un atteggiamento esplicito di chiusura nei miei confronti. Però io, a differenza dello skinhead uomo, ho dovuto dimostrare di essere skinhead e di non essere la ragazza dello skinhead. Dice, per me è stata una fatica doppia, perché già è faticoso fare le cose per una scena come la nostra, in qualsiasi scena, ma nella nostra in particolare, perché sono tutti i pregiudizi che sappiamo, anche essere state accettate nei centri sociali, avendola vissuta questa cosa, vi posso dire che non è stato semplice. E lei dice, oltre a tutte le difficoltà che c'erano nei miei amici skinhead, ho avuto anche quella di farmi accettare come skin, di avere una mia dignità e di poter fare le mie cose. Un'altra ragazza, tra parentesi erano amiche queste due, ci hanno avuto anche un collettivo in comune, per cui conoscenze comuni, amicizie comuni e via dicendo, invece mi ha dato una testimonianza di segno opposto, ha detto no, io non ho assolutamente mai avvertito questa cosa. Dice, certo, c'era il maschilismo, ma il maschilismo c'era perché c'è dappertutto. L'Italia è un paese maschilista, per cui è normale quello che ho visto, e devo dire che rispetto ad altri ambienti ce n'è molto di meno. Bene, grazie mille, sei stato davvero, hai dato davvero una risposta interessante. Lascio la parola ad Alessia. Sì, a Priscilla. Vabbè, non importa, ormai mi hanno sgamato tutti che in realtà Priscilla, dietro Priscilla si nasconde Alessia. Comunque, no, per salutarti, noi allora, siccome ci vedremo stasera al concerto sottotetto, che ci sarà un seratone con Yoi Pollois, Contro Torino, Nucleo Terco di Eitis, Rebelde, Romagna, Corf Gao, Tondino Boys e poi Jamborn, ovvero voi, cioè tu. Quindi sì, sono in qualche misura coinvolto. Quindi è un gruppo mascherato. Mascherato. Qualcosa. Quindi per salutarci noi in realtà ci diamo appuntamento stasera, appunto alla serata dei Bologna City Rockers organizzata al sottotetto. Detto, ti chiediamo di lanciare una canzone per salutarci. Allora direi di avere la canzone ideale sia per l'intervista che c'è appena stata che per il concerto che ci sarà breve, ovvero Skinhead degli Ocolloi. Perfetto, grazie. Grazie mille, sei voi. Stato gentilissimo. Buona serata e buona fortuna per il libro. Ciao, bocca al lupo, buona serata. Ciao. Ciao. Ciao.